terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Ero di nuovo in viaggio, di nuovo al volante della vecchia berlina azzurra, di nuovo solo. Rita era ancora morta al mondo quando le lessi quella lettera e combattei le montagne di sofferenza che essa innalzava dentro di me. Le avevo gettato uno sguardo mentre sorrideva nel sonno e con un bacio sulla fronte madida l'avevo lasciata per sempre. Un biglietto di tenero addio attaccato all'ombelico con il nastro adesivo, altrimenti avrebbe potuto non trovarlo. Solo, ho detto, pas tout à fait. Avevo con me la mia nera amichetta e appena raggiunsi un posto isolato, inscenai la morte violenta del signor Richard F. Schiller. La lettera era datata 18 settembre 1952, era il 22, e l'indirizzo che Lolita mi dava era Fermoposta, Colmont. Dopo alcune indagini scoprì che si trattava di una piccola comunità industriale a circa 1300 chilometri da New York. Progettai dapprima di viaggiare tutto il giorno e tutta la notte, ma poi ci ripensai e verso l'alba riposai un paio d'ore in una camera di motel, qualche chilometro prima di raggiungere la città. Mi ero messo in mente che il demonio, quello Schiller, fosse un concessionario di automobili che, magari, aveva conosciuto la mia Lolita a Bursley, dandole un passaggio, il giorno in cui aveva forato la ruota della bicicletta nel tragitto verso la signorina L'Empereur. E poi s'era messo nei guai. Entrai con passo preciso in una cabina telefonica di Colmont. Ah, ah, ah, disse la porticina e fece il numero dell'unico Schiller, Paul, mobili, che trovai sul logoro elenco telefonico. Il rauco Paul mi disse che sì, conosceva un Richard, il figlio di un suo cugino, e l'indirizzo era, vediamo, Killer Street 10. Non vado a cercarli molto lontano, i miei pseudonimi. Ah, ah, ah, disse la porticina. Al 10 di Killer Street, un caseggiato popolare, intervistai un certo numero di vecchi demoralizzati e due ninfette incredibilmente sporche dai lunghi capelli biondo fragola. Traversai la strada ed entrai in una squallida drogheria dove, chiamata da un cliente su mia richiesta, la voce di una donna salì da un ligneo abisso nel pavimento, il corrispettivo del tombino, e gridò «Hunter Road, ultima casa». Erano circa le 2. Le mie pulsazioni andavano da 40 a 100 al minuto. La pioggia crepitava sul cofano. La pistola migrò nella tasca destra dei pantaloni. Dal retro sbucò un cane insignificante, si fermò sorpreso e cominciò a emettere qualche latrato soffocato e amichevole, gli occhi socchiusi, la pancia ispida tutta incrostata di fango. Poi gironciolò un pochino e abbaiò di nuovo. Scesi dalla macchina e sbattei la portiera. Come sembra banale, come sembra prosaico quel colpo nel vuoto del giorno senza sole. Uff, commentò il cane automaticamente. Premetti il pulsante del campanello che vibrò in tutto il mio organismo. Person. Gereson. Reperson. Da quale profondità questa riassurdità? Wow! Disse il cane, trambusto e ciabattio, e la porta si spalancò con un sibilo e un wow! Thank you. di 5 centimetri, occhiali cerchiati di rosa, nuova pettinatura, capelli all'insù, nuove orecchie. Com'era tutto semplice. L'istante, la morte che da 3 anni continuavo a evocare, era semplice come un pezzetto di legna secca. Era esplicitamente, enormemente incinta. La testa sembrava più piccola. In realtà saranno passati solo 2 secondi, ma lasciate che dia loro tutta la legnosa durata che la vita può sopportare. E le guance dalle pallide lentiggini erano scavate, e i polpacci e le braccia nudi avevano perso tutta la bronzatura, tanto che se ne vedeva la peluria. Portava un vestito di cotone marrone senza maniche e sformate ciabatte di feltro. «Ma guarda chi c'è, eh?» esalò dopo un attimo di silenzio, con tutta l'enfasi dello stupore e del benvenuto. «Tuo marito è in casa?» Gracchiai il pugno in tasca. «Non potevo uccidere lei, naturalmente, come ha pensato qualcuno. Vedete, io l'amavo. Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. Entra», disse con una veemente nota d'allegria. Contro il legno crepato della porta, Dolly Schiller si appiattì come poté, addirittura alzandosi appena sulle punte per farmi passare, e per un istante fu crocefissa, guardò giù, sorrise alla soglia, le guance incavate con le pommette rotonde, le braccia color latte annacquato distese sul legno. Passai senza toccare la protuberanza del suo bambino. Odore di Dolly, con lieve aggiunta di fritto. Battevo i denti come un idiota. «No, tu stai fuori!» al cane. Chiuse la porta e seguì me e la sua pancia nel salotto, da casina delle bambole. «Di che è lì?» disse, indicandolo con una racchetta invisibile. Era arrampicato su una scala e, dandomi le spalle, aggiustava qualcosa accanto o sopra la catapecchia del vicino, un tizio più grasso, con un braccio solo, che in piedi lo guardava da sotto. «Non è lui che voglio», dissi. Il diffuso sguardo di benvenuto lasciò i suoi occhi. La fronte si corrugò come ai vecchi tempi amari. «Non è lui? Chi? Dov'è? Presto!» «Senti», disse, inclinando la testa e scuotendola in quella posizione. «Senti! Non vorrei mica ricominciare!» «Su! Il nome!» Ribatté che era inutile. Non me l'avrebbe mai detto. Ma d'altra parte, in fondo, vuoi davvero sapere chi era? Beh, era...» E con voce sommessa e confidenziale, inarcando le sopracciglia sottili e sporgendo le labbra screpolate, emise in tono beffardo, leggermente schizzinoso, ma non senza tenerezza, con una sorta di sibilo attutito, il nome che il lettore astuto ha indovinato da tempo. «Waterproof». Perché un lampo del lago a Clessidra traversò la mia coscienza? Anch'io, senza saperlo, l'avevo sempre saputo. Non ci fu shock, non ci fu sorpresa. Doctor darling, when hot spring did bada, did women going crazy every day they lie by? When you kill a man, you Yes, I will. Jed Bada, I'm a fool about my. Don't take me long to get my. Baby, you know I need my. It means on poison moon the lifetime. Jed Bada, baby, you know I ain't long. How about now? All I want, maybe this vision, is I go to bed, you don't want to fight better. Look at your baby, would you slap me? Yes, I will. Get better, baby, you know I'm a fool. How about now? Would you kill my man? Yes, I will. You know I'll kill you. Jed Bada. Oh, Jimmy May. That you see it. Fool about it. You know, babe, I mean that old. Baby, I want to hear the jingle. Bada. Baby, you won't quit me? Yeah, huh? Jed Bada. All I want is così? Mi hai tradito? Dove sei andata? Dov'è lui adesso? Tradito? No, non mi aveva tradito. Ero fra amici. Medusa l'aveva avvertita che a Q piacevano le ragazzine. Una volta era quasi finito in galera, di fatto, bel fatto. E lui sapeva che lei lo sapeva. Sì, quando gli aveva confessato come stavano le cose tra me e lei, era morto dal ridere e aveva detto che lo aveva intuito. Non era pericoloso dirglielo, date le circostanze. Bene, Q. Lo chiamavano tutti Q. Va avanti, per favore. Erano d'accordo che a settembre lui l'avrebbe portata a Hollywood e le avrebbe organizzato un provino per una particina nel film basato sulla sua commedia Budella d'oro, nella scena del tennis, e forse le avrebbe persino fatto fare la controfigura di una delle sensazionali stelline sul campo abbacinato dai riflettori. Ahimè, non se n'era mai fatto niente. Dov'è adesso quel maiale? Non era un maiale. Era in gambissima sotto molti aspetti, ma non faceva che bere e drogarsi. E certo, in fatto di sesso, aveva dei gusti molto strampalati e i suoi amici erano suoi schiavi. Non potevo neanche immaginare, io, Humbert, non potevo immaginare le cose che facevano tutti al Duck Duck Ranch. Lei si era rifiutata di partecipare perché lo amava e lui l'aveva buttata fuori. Quali cose? Oh, cose strambe, sporche, fuori del normale. Sai, prendeva due ragazze e due ragazzi e tre o quattro uomini e l'idea era di abbrancarci tutti nudi mentre una vecchia ci filmava. La Justine di Sade aveva 12 anni all'inizio. Ma quali cose esattamente? Oh, delle cose. Oh, insomma, io. E mise quel io come un grido soffocato, mentre prestava ascolto alla sorgente del dolore e in mancanza di parole aprì le cinque dita della mano che si muoveva angolosamente su e giù. No. Non ce la faceva, si rifiutava di entrare in particolari con quel bambino nel ventre. Questo mi parve sensato. Non ha più importanza adesso, disse, picchiando col pugno un cuscino grigio e mettendosi sdraiata sul divano a pancia in su. Cose pazze, cose sporche. Io ho detto no. Non ho intenzione di... Usò con la massima disinvoltura una disgustosa espressione gergale che, tradotta letteralmente in francese, sarebbe Soufflé. I tuoi schifosi ragazzi, perché io voglio solo te. Beh, mi ha sbattuto fuori a calci. Non c'era molto altro da dire. Quell'inverno del 1949 lei e Fay si erano trovate a un lavoro. Per quasi 2 anni era andata, in giro. Aveva lavorato in qualche ristorante, in posti piccoli. E poi aveva conosciuto Dick. No, non sapeva dove fosse quell'altro. A New York, immaginava. Comunque era così famoso che se avesse voluto lo avrebbe trovato subito. Lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette e le vene in rilievo da adulta, le braccia bianche con la pelle d'oca e le orecchie appena concave e le ascelle non rasate. Era lì, la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai, e seppi con chiarezza, come so di dover morire, che l'amavo più di qualunque cosa avessi mai visto o immaginato sulla terra, più di qualunque cosa avessi sperato in un altro mondo. Di lei restava soltanto il fievole odor di viole, l'eco di foglia morta della ninfetta sulla quale mi ero rotolato un tempo con grida così forti. Lolita, dissi, forse questo non sta né in cielo né in terra, ma devo dirlo, la vita è molto breve. Da qui a quella vecchia macchina che conosci così bene ci saranno 20, 25 passi. È un tragitto brevissimo. Falli quei 25 passi subito, immediatamente, vieni così come sei e vivremo per sempre felici, contenti. Carmen, voulez-vous venir avec moi? Vuoi dire, disse spalancando gli occhi e sollevandosi appena il serpente pronto a colpire, vuoi dire che ci darai, ci quei soldi solo se vengo con te in un motel. Questo vuoi dire? No, no, dissi. Non hai capito niente. Voglio che tu lasci il tuo occasionale di che questa topaia orrenda e che venga a vivere con me e a morire con me e tutto con me. Parole di questo tenore. Sei pazzo, disse il viso contratto. Pensaci, Lolita, è una proposta incondizionata. Tranne, forse, beh, lasciamo stare. La sospensione dell'esecuzione, volevo dire, ma non lo dissi. Comunque, se rifiuti, avrai pur sempre il tuo trousseau. Senza scherzi, disse Dolly. Le porsi una busta con $400 in contanti e un assegno per altri 3.600. Con mano guardinga e incerta ricevette Mon Petit Cadeau e poi la sua fronte divenne di un bellissimo rosa. Vuoi dire, domandò con angosciata concitazione, che ci dai $4.000? Mi coprì la faccia con la mano e piansi le lacrime più cocenti che avessi mai versato. Le sentii serpeggiare tra le dita e giù per il mento e scottarmi. Mi si chiuse il naso e non riuscivo a smettere. E poi lei mi toccò il polso. Se mi tocchi, muoio, dissi. Sei sicura che non verrai con me? Non c'è speranza che tu venga. Dimmi soltanto questo. No, rispose. No, caro, no. Non mi aveva mai chiamato caro. No, disse, neanche a parlarne. Piuttosto tornerei da Q, voglio dire. Cercava le parole, gliele fornì mentalmente. Lui mi ha spezzato il cuore. Tu hai soltanto spezzato la mia vita. Credo, continuò. Hop! La busta scivolò sul pavimento. La raccolse. Credo che sia veramente grandioso da parte tua darci tutti questi soldi. Adesso siamo a posto. Possiamo partire tra una settimana. Smetti di piangere, per favore. Dovresti capire. Aspetta, ti prendo dell'altra birra. Oh, non piangere. Mi rincresce di averti tanto ingannato. Ma così è la vita. Mi asciugai la faccia e le dita. Lei sorrise al Cadeau. Esultava. Voleva chiamare Dick. Dissi che me ne sarei andato tra un minuto. Che non volevo vederlo. Affatto. Affatto. E dopo non molto guidavo nella pioggerellina del giorno morente, con i tergicristalli in piena azione, ma incapace di tener testa alle mie lacrime. Sweetheart, the night is growing old. Sweetheart, my love is still untold. A kiss that is never tasted forever and ever is wasted. For we know we may never meet again. Before you go, make this snowman sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. This may only be a dream, we come and go like a ripple or a stream, so love me tonight. Tomorrow is late for some. Tomorrow may never come. Oh. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.